Introduzione. Bologna, città delle torri, città dei portici, città dell'università, la più antica del mondo. Bologna la grassa, Bologna la rossa e... Bologna, la città dei sette segreti. Come? Non lo sapevate? Ebbene, nel corso del tempo, l'itinerario dei sette segreti di Bologna è diventato un'attrazione turistica così popolare da richiamare visitatori da tutto il mondo, fino ad affermarsi come una delle proposte più frequentate dei tour guidati. Alcuni sostengono che sia stata una guida spagnola, qualche decennio fa, a inventare questa singolare definizione per una città che di segreti, come avremo modo di verificare in questo volume, ne ha molti di più. Ma che si tratti di una recente invenzione commerciale o di una tradizione che affonda le sue radici nel passato, poco importa. I sette segreti di Bologna sono ormai consolidati come il primo passo per approfondire la conoscenza di una città ricca di fascino, di storia, di suggestioni. Perché allora non lasciarci condurre alla scoperta degli aspetti meno conosciuti del capoluogo emiliano, usando come filo conduttore proprio l'itinerario tracciato dai sette segreti? Da ognuno di essi scaturiranno innumerevoli connessioni, volte a illuminare gli aspetti più oscuri di una città che non smette mai di stupire.